Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Italia, anno 2012. Il default, il fallimento economico dello Stato, incapace di pagare i suoi debiti, è una paura costante. Lo spread ce lo ricorda. Le manovre lacrime e sangue del governo Monti sono la medicina amarissima e non priva di effetti collaterali per impedire la morte di un paziente mai così malato. Argentina, anno 2002. Il default lì non è, come per noi oggi, una terribile paura, ma è la durissima realtà. Una realtà che chiude le fabbriche, decima i conti in banca dei risparmiatori, getta sul lastrico un intero paese. Tutto sembrava finito per sempre. E invece no. No, perché l'Argentina è ripartita più forte di prima, puntando proprio sui lavoratori. Il cuore pulsante dell'economia delle Pampas, così popolata di nostri connazionali, non è più la finanza sterile, quella dei giochetti di borsa, tanto per intenderci, quella dei crack controllati o degli speculatori. Il centro dell'economia argentina sono i lavoratori. E le cooperative autogestite dei lavoratori argentini non hanno tanto rialzato un paese, ma lo hanno rifondato. Il tasso di povertà è crollato, pensate che la disoccupazione è passata in pochissimi anni da 33 a 10%. Un risultato eccellente. E questi lavoratori non si dimenticano degli anni più bui della loro vita. Questi lavoratori che non hanno mai perso la speranza vogliono lasciare acceso quel lumicino di speranza anche per gli altri, e moltissime di queste cooperative autogestite viene reinvestito in opere sociali. Quindi il frutto del lavoro non serve per i conti in banca, ma per il bene di tutti, per rendere le città a misura d'uomo. Quindi ospedali, case popolari, strutture sportive, centri culturali, queste alcune delle opere finanziate. Quindi non siamo più a quell'Argentina a cui dobbiamo dare una mano. Ora è l'Argentina che sale in cattedra e ci insegna dei modelli di sviluppo sostenibile che potrebbero aiutare anche noi a risollevarci dalla crisi. Una strada di questo tipo è già stata indicata nel 2009 da Papa Benedetto XVI all'interno della sua enciclica Caritas in Veritate, e leggiamo proprio questo brano a riguardo. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Considerando le tematiche relative al rapporto tra impresa ed etica, nonché l'evoluzione che il sistema produttivo sta compiendo, sembra che la distinzione finora invalsa tra imprese finalizzate al profitto, profit, ed organizzazioni non finalizzate al profitto, non profit, non sia più in grado di dar conto completo della realtà, né di orientare efficacemente il futuro. In questi ultimi decenni è andata emergendo un'ampia area intermedia tra le due tipologie di imprese. Non si tratta solo di un terzo settore, ma di una nuova ampia realtà composita che coinvolge il privato e il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali. Anche il Vescovo di Padova incoraggia, all'interno del suo messaggio per la festa del lavoro di quest'anno 2012, a percorrere questa strada. Ecco alcune parole. A noi pare, anche osservando molti dei territori della nostra diocesi, che ci siano riserve di valori e di libertà orientate al bene comune, e anche in realtà dove sono incoraggiate e coltivate vocazioni ad un impegno economico e imprenditoriale sostenibile e libero. Questo è il messaggio del Vescovo. Ma c'è già chi questa strada la sta già percorrendo con successo. Stiamo parlando, per esempio, della cooperativa Tesori di Villa del Conte a Padova. Un'impresa che si occupa di installare e di rifornire quelle stesse macchinette del caffè a gettone che trovate nei vostri uffici, in palestra, nei luoghi pubblici in generale. Nulla di straordinario, direte voi, eppure lo stile in questo caso è tutto. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mario Zatta, della cooperativa Tesori di Villa del Conte. Grazie per essere con noi. Sì, buongiorno, grazie a voi. In cosa vi sentite speciali? In realtà speciali solo ed esclusivamente nel tentativo di superare la logica di contrapposizione delle aziende profit, no profit. Questo è un po' il tentativo che noi stiamo facendo, cioè il tentativo di trovare una terza strada, diciamo, ecco, che è quella della responsabilità sociale d'impresa. Quindi non lasciare a tutti l'idea che il no profit sia un mondo di buoni e il profit sia un mondo di cattivi. Ecco, e quindi pensare che l'impresa in quanto tale si deve far carico all'interno della comunità non solo del lavoro in quanto tale, ma anche del territorio e dell'ambiente, inteso proprio comunità, ecco, come comunità, tutti insieme ci si fa carico di questo aspetto, insomma, ecco. Insomma, uno strumento non solo per il profitto, ma per realizzare finalità umane e sociali. Le parole del Papa nella Caritas in Veritate, vi riconoscete? Esattamente, sì, rimettendo al centro della nostra azione quei valori, il profitto diventa una cosa sicuramente importante, ma non è l'unica cosa, ecco. Quindi le aziende nascono per produrre beni e servizi attraverso il lavoro, e le persone attraverso il lavoro creano delle relazioni significative. Ecco, nel momento in cui tutto questo è finalizzato a un bene comune, diciamo, sicuramente miglioriamo quello che è la qualità sia della vita delle persone sia dei prodotti che noi produciamo, ecco, perché abbiamo anche più attenzione come responsabilità del nostro territorio, dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, questo è un po' il concetto che noi cerchiamo di portare avanti. Si può operare all'interno di un sistema di mercato, cercare in qualche modo per la giusta misura il profitto e allo stesso momento avere finalità sociali? Sì, e noi proprio superando la logica dell'assegnare solo alle cooperative sociali o al terzo settore il discorso dell'azione sociale, intendiamo proprio questo, cioè noi non dobbiamo pensare che il mercato in sé sia una cosa negativa, il mercato in sé è una cosa estremamente positiva, perché consente appunto di creare impresa, consente di dare opportunità e soprattutto noi speriamo, specie in questo periodo, che il lavoro all'interno del concetto proprio di mercato crei delle opportunità che diano speranza alle persone, ecco, non disperazione. Il lavoro per noi è lo strumento con il quale appunto le persone in larga parte si realizzano, e il profitto è l'utile con il quale si realizzano queste cose, insomma, ecco. Quindi non dobbiamo perseguire come obiettivo unico e finale il profitto, dobbiamo recuperare quei valori fondamentali del lavoro che sono proprio nelle relazioni tra le persone, insomma, ecco. Le chiederemo un po' di dettagli sulla vostra storia appena dopo la pausa. Ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati per questa puntata del bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento con Mario Zatta della cooperativa Tesori di Villa del Conte. E grazie per essere con noi. Grazie a voi di averci invitati e di darci questa grossa opportunità di farci conoscere. Prima abbiamo un po' volato alto, abbiamo parlato di impresa che può coniugare profitto a valori sociali, però adesso vogliamo concentrarci un po' sulla vostra storia. Come siete partiti? Qual è stata l'intuizione che vi ha portato ad occupare, insomma, questa nicchia di mercato e nel vostro stile, insomma? Allora, noi siamo partiti proprio attraverso uno strumento il più classico, quindi un'associazione giovanile che si occupava di attività e si occupa tuttora di attività rivolte ai giovani, questa iscritta alle ACLI, questa associazione si chiama Sonica, gruppo di amici che ha cominciato ad operare promuovendo appuntamenti, incontri. Ecco, facendo questo abbiamo sentito l'esigenza di coinvolgere nelle nostre attività anche largo numero di persone con disagio, disabilità, che si sono avvicinate a noi, e ci siamo resi conto immediatamente che il loro grosso problema era quello di venire collocate all'interno di una rete, in pratica, ecco, rete di amicizia, rete di rapporti istituzionali, cioè erano un po' isolati anche perché appunto non possedevano mezzi, non avevano mezzi per potersi spostare, non avevano amici che potevano in qualche modo aiutarli. Da qui l'idea di dire: ma perché non creiamo noi un'impresa che si colleghi con le altre imprese e dia loro la possibilità di trovare anche un posto di lavoro, in realtà. E questa è stata un po' l'idea che si è mosso. E poi l'intuizione è stata quella di dire: dobbiamo creare però un'impresa che non isoli noi e i ragazzi o comunque i nostri amici con disabilità ancora di più, quindi non volevamo creare un'opportunità di lavoro chiusa in se stessa. Ecco, e ci è venuta l'idea delle macchinette distributori, quindi il settore del vending, diciamo, ecco. E cosa è successo? Siamo partiti veramente senza nessuna pretesa, mettendoci i soldi nostri, in realtà come tutti gli imprenditori, abbiamo pensato subito al mercato in quanto tale, nel senso non volevamo essere visti come una realtà di beneficenza o di volontariato, e abbiamo imparato i meccanismi dell'impresa, abbiamo fondato la cooperativa e immediatamente ci siamo posti il problema di dire con quale stile noi vogliamo portare questa esperienza in giro. Allora ci siamo subito posti il problema di dire quali elementi dobbiamo tenere presente, quindi responsabilità sociale di impresa significa per noi, non so, distribuire il caffè del mercato ecosolidale, i prodotti del mercato ecosolidale, significa avere tutti i furgoni con cui giriamo nelle varie aziende che sono a metano, significa fare particolare attenzione agli orari di lavoro, specialmente per le persone con disabilità. Significa nei luoghi dove andiamo informare anche i nostri utenti, i nostri consumatori dei prodotti che loro utilizzano, quindi dare informazioni, scegliere con loro i vari prodotti, significa mantenere i prezzi anche dei prodotti il più basso possibile proprio per venire incontro anche ai nostri utenti, significa non so, tutti i bicchieri e le palette che noi distribuiamo, raccoglierli, portarli a casa, ci siamo collegati a un'azienda che li recupera e si trasformano in attaccapanni, ecco, tante piccole cose che in realtà noi abbiamo messo in pratica a partire dal concreto, cioè ci siamo chiesti cosa possiamo fare, ecco, stiamo realizzando adesso, cioè, stiamo tentando di realizzare un impianto fotovoltaico per poter produrre l'energia che noi stiamo calcolando, ecco, di consumo dei vari distributori, sono piccole cose. Però noi abbiamo visto che quando andiamo a proporre alle aziende i nostri distributori, in realtà non scelgono un caffè o un distributore, scelgono di aderire a un progetto e capiscono che semplicemente con i 30 centesimi del caffè si collegano in realtà a un circuito molto interessante, noi amiamo chiamarlo moltiplicatori di benessere, cioè vale a dire attraverso quel caffè mettono in moto un processo che è per caduta è un processo che va a coinvolgere tantissime persone, quindi non solo il disabile, non solo la cooperativa sociale, ma anche il mercato ecosolidale, il rispetto per l'ambiente, la possibilità con l'utile di investire, diciamo, quell'utile in progetti sociali per il territorio. La vostra cooperativa ha quante persone da lavoro? Quante persone, chiamiamole così con un termine brutto, normodotate, e quanti con handicap? Allora, noi siamo partiti operativamente nel 2008, quindi sono due anni e qualche mese che siamo partiti. Attualmente abbiamo 6 persone cosiddette normodotate e 3 persone con disabilità, e più abbiamo dato la possibilità all'ULS di fare 5 tirocini presso la nostra cooperativa a costo zero praticamente, ecco. Ottimo, e una domanda, è chiaro che per queste realtà propugnare il sociale molto spesso non significa solamente lavorare all'interno, ma anche contagiare con le proprie idee le realtà vicine o le realtà che incontrate. Prima diceva che quando andate nelle aziende per ricaricare le macchinette portate le iniziative, mostrate e date un messaggio. Siete riusciti a contagiare qualche altra realtà e come, in che modalità? Sì, noi in realtà la nostra fortuna è proprio questa, che viviamo, noi non abbiamo, cioè, a parte il magazzino, non abbiamo un luogo fisico dove noi abbiamo la nostra sede, diciamo, la nostra sede è proprio presso tutte le aziende, le quali quando vengono contattate ci chiedono appunto il classico preventivo, noi però andiamo giù con un progetto ben preciso, presentiamo la nostra idea, la nostra proposta anche dal punto di vista non solo economico, commerciale, ma anche sociale, quindi tentiamo di coinvolgerli subito in prima battuta. Poi in seconda battuta dobbiamo considerare che chi ci sostiene in realtà sono proprio i dipendenti, sono quindi dipendenti dei comuni, dipendenti delle varie aziende, i quali con curiosità le prime volte ci vedono circolare con appunto ragazzi con disabilità, poi chiaramente capiscono l'importanza di questa cosa e aderiscono ancora di più, perché ci hanno richiesto molte volte anche degli interventi presso le aziende per capire meglio che cos'è un'impresa sociale, che cos'è una cooperativa, questi ragazzi come vengono assunti. Ecco, e in secondo luogo molti degli imprenditori che hanno scelto la nostra distribuzione hanno chiaramente l'obbligo di assunzione anche loro di ragazzi con disabilità, di soggetti con disabilità, quindi cosa succede? Ci chiedono informazioni, ci chiedono come poter fare, se possono fare dei tirocini presso di noi e quindi si approcciano anche a questo obbligo di legge in maniera completamente diversa, con un'apertura e anche una sensibilità che noi vediamo modificata, insomma, ecco, mutata. Un ultimo spunto le domando, prima abbiamo fatto l'esempio dell'Argentina che con realtà molto simile alla vostra è riuscita a riprendersi non da pizza e fichi ma da un default che è una cosa gravissima. In questo periodo di crisi se doveste dare dei consigli a qualche imprenditore o a persone di responsabilità contagiandoli con le vostre idee, cosa direste? Proprio due battute. Beh, è semplicemente che intanto, ripeto, il lavoro dovrebbe essere sempre una speranza, ecco, anche nei momenti di crisi penso che i valori, quando sono al centro del nostro operato, creano appunto speranza, opportunità di lavoro. E dall'altra parte mi sento di dire che investire e non spendere è la cosa migliore, cioè investire sulle persone, investire sui contatti, sulla comunità, sull'ambiente, sul territorio. Queste sono le regole fondamentali, diciamo, per poter rimanere sul mercato. Dall'altra parte la nostra formula imprenditoriale è una formula cooperativistica e quindi prevede la ridistribuzione chiaramente della ricchezza all'interno della compagine dei soci, diciamo. E a volte riuscire comunque a mantenere il livello anche occupazionale anche in momenti di crisi serve proprio per dare una mano alla ripresa. Noi dobbiamo considerare che se la liquidità circola, quindi se le persone hanno un posto di lavoro, hanno la possibilità di avere uno stipendio, aumenta la possibilità anche di ripartire, diciamo, ecco. Mi sento questo, quindi tra la responsabilità sociale dell'impresa e dell'imprenditore c'è anche quello di considerare che il proprio intervento non è solo economico ma anche appunto sociale. Grazie infinite per questi suoi consigli, speriamo che realtà come la vostra continuino non solo a prosperare ma anche a dare una mano a tutta l'economia a rialzarsi, non solo con il semplice profitto ma proprio con queste idee che germinano e fortunatamente anche in questi periodi di crisi riescono a sbocciare ancora. Grazie a voi. Buongiorno. Proseguono le iniziative per il mese del lavoro con cose nuove del lavoro a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova. Il prossimo appuntamento domani sera alle 21 a Este, Accademia dell'Artigianato, per Sensi di Fatica 2, il lavoro raccontato con l'arte, mentre sabato alle 9:30 a Padova all'auditorium dell'OIC in zona Mandria, un convegno a cura del Lucid, crisi economica e finanziaria, rendite, pensioni, risparmi e previdenza. Ringraziamo l'Associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo nella realizzazione di questa trasmissione. Noi ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18:25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Ricordiamo il podcast sul sito di Blu Radio Veneto, mentre per scriverci e mandarci suggerimenti o consigli mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova.